tanto è come l'SX, no? Poi ho visto lì, a fianco alla, diciamo, allo strumento, quello analogico, questa scala BND 1.8 mega, solo lì si illumina. Non sto vedendo, no? Ma non mi riporto, cosa fa VU anche così? Sì, lo sto vedendo, è carino, però non me ne posso nuda a voi, sì, cioè sì, no, non me ne posso nuda. Ecco. Avanti. Buonasera a tutti Marco, volevo fare una domanda a Antonio Riserva. Antonio, tu eri che eri interessato a quel PNI da 49,99 euro, ma non si trovava corrispondenza sulla tabella degli omologati? Siccome interessava anche un'altra persona, sempre per camper, roba del genere, no? Io ho visto che identico, buonasera a tutti, c'era il CRT Millennium, che sempre ha fatto roba omologata anche per Italia, no? Pur essendo francese, no? Però, caso strano, anche quello non corrisponde nella lista degli apparecchi omologati. Però stavo pensando, siccome è recente questo Millennium, io mi chiedevo, ogni quanti mesi aggiornano quella lista? Interrogativo, non si sa. A parte che la lista contiene anche apparecchi baracchini per i 28 MHz, roba bibanda, non ho capito quale sia il criterio. Forse diciamo sono approvati, no, per il mercato italiano come spurie, armoniche, quindi non è solo roba CB, volevo dire. Comunque c'è una differenza di 10 se non 20 euro da un apparato all'altro, e poi sono identici in tutto e per tutto, e ti dirò che è carino, guarda, per 49 euro, cioè per un camper va più che bene, lo infili dove vuoi, a parte, vabbè, anche nel corseo volendo, poi carino, c'è una specie di straccio di smitter, insomma è carino, poi non si sa come scadiradio, ci vorrebbe qualcuno che l'abbia già provato, bisognerebbe sentirlo. Esatto, poi chi ha un secondo DIN, spazio DIN, si fa una, si adatta una staffettina, cioè si fa un frontalino in modo che ci stia quello in mezzo, solo che è talmente piccolo che è un peccato sprecare uno spazio DIN, magari uno si mette altro. Va bene, tutto lì, volevo chiedere quello. Ho notato sì, anche 20 euro di differenza, perché CRT è più conosciuta, PNI, mi pare sia italiana, ma non lo conoscevo tanto. Va bene, Luca, tu Rosmet lo stai cercando, perché dietro consiglio di Giulio, vabbè, io ho rinunciato al Daiwa perché è troppo costoso e troppo professionale per le cagate che farei io, ho detto terra a terra, e Giulio aveva consigliato un Diamond SX200, fa da 1.8 ai 200 MHz. E tu mi dici, vabbè, del VHF me ne frego, però abbastanza buono, te la cavi con 80 euro in più di spedizione, Luca. Sì, lo so. Perché c'è il 200, il 100 non lo fanno più, che era da 1.8 a 60 MHz, c'è il 200, poi c'è il 400 che fa anche bande più alte, il 600 che fa tutto, poi il 1000 addirittura che arriva al gigahertz, però lì è roba, no? Roba aliena per noi. Va bene, riprendi Antonio, vi saluto, io devo far roba. A più tardi, ciao. Ciao a tutti. Guarda il telefono, ma... Preghito. No, azzardo, Cabagaba. Ehi, vedo un casino, vedo un casino. Bello Cariello. Vabbè, Claudio. Sì, ascoltando vi stavo. Allora. Mi ascolti, sì. Non ho capito. Non so, io so quel baracchino piccolino, se mi ascolti. Ah, mi ascolti. Vabbè, dove sei alto in campagna? Funziona meglio questa cagata che avete prima. Io le mie più 5 e il Royce sto usando. 4 watt. Oh, ma sono. Vai classico. Sì, senti, se devo vedere. Cos'è Luca? Cos'hai detto Luca? Break. Cioè, Luca è proprio un soldato. Avanti Gianni, dimmi. Buonasera a tutti, ho detto mi sono svegliato anch'io. Adesso mi sono svegliato. Ho detto che tipo di antenna stai usando? Quanto? Cos'hai messo quella là? Hai trovato il pezzo? C'è Santiago Lope qua, stai arrivando bene. E vedi, basta poco, basta poco. Tu ci stai fregando, cosa ti imbuccio? Perché antenna nuova? Ce n'è una bellina, ne ho visto una bellina da coso, dalla GBC. La PLC 6, no, la PLC 4, che rimane nera. È molto bellina, per la macchina mia va bene perché è lo stesso colore. La PLC 4, non so se voi la conoscete, non so come sia di caratteristiche, però ne vuole troppo. Ne volevo 55 euro ed è più corta della PLC 6. No, io ho tenuto in macchina già, a parte la PLC 800, la 1000, è quella che ci avevo io, la conosco altro. Assolutamente. Anche qua sta arrivando Santiago 9, Antonio. Pensavo a te arrivasse di più. Qua Santiago 9 sta arrivando. Claudio, queste smitter, io ho detto 9, va. Queste smitter sono un po' avari di questi apparecchi, capito? Non sono avari, vanno tarati. Stava dicendo Marco che sono tutti così in 2009. Infatti anche quello che avevo io Colt, quando l'avevo comprato, l'aveva fatto Massimiliano, capito? Perché sono i segnali e non arrivi nel più di nuovi. Gli ho detto una che non volevo. E Massimiliano mi ha detto, come mi ha confermato Marco stamattina, che praticamente quando li vendono tutti così, capito? Vuole aumentato anche il coso del segnale. Ma non è uno vendo una radio e non deve avere lo strumento a posto. Arrasta di goccia, ragazzi, tocca stare malamettendo e facendo. Sì, vabbè, pazienza, io adesso mi regolo, perché tu sei 9.30 solitamente, sei 9.15. Io vabbè, no, guarda, io con l'Elbex, quello di che c'è la smitter, guarda quello lì, così proprio uguale, proprio al 3009, al Tornado 4005, così, no? È perfetto, tu sei sul più e quindi sei 9 più 20, capito? Sul 3 sei, arriva Marco che è 9 più 30 e Antonio è segnale 9, anche sul coso, sul 440, 430 eccetera, capito? E lui è lo stesso, questo Santiago 9 e il tuo segnale sta segnando 9 più 20. No Gianni, quanto costa su internet questa PDC? Avete se me la futtendi? Il minimo che te la mi dai già, allora te la futtendi. Anto, bene mi senti di radio? Anto? No, se non mi rispondi come faccio? Ho detto se sto uscendo bene di radio. No, questo non è il MB più 5 con Royce, no. Questo ormai non si muove più da qua, questo va bene così, le spalle 500 dentro l'armadio, è troppo grande, non c'ho posto a metterlo, capito? E il terne più 3 è sopra l'altro, sopra il, come si chiama, il Cobra. No, questo l'ho preso da Gigi Vulcano, è fatto arrivare, non ve ne ponti no, io non me l'ho aperto, ma mi ha detto lui il lavoro che ha fatto, c'è una resistente, la capsula è di quelle buonissime, spinge, e c'è una 3. Claudio. E io. Allora sai che non me la futteni, dov'era quanto costa? E quanto? 73,51, lui voleva 55. Cazzo già, per la prima volta, per quello è tornato il sereno, allora compare già via, bovaraccio, se costa così. No, aspetta, calma, che questo mese ci sono 300 euro di cosa di... Ma... Sto facendo il tagliando alla macchina, ci voglio 300 euro per fare il tagliando, adesso la faccio perché in garanzia, poi dal prossimo tagliando vado a Franco. No, già, adesso devi andare, che io primo periodo così, poi finita la garanzia, andai zio dei miei biazzi. In un altro posto costa 60 euro, ci siamo, è più le spese di spedizione, ero qua, ci siamo. No, vabbè, se è quel prezzo già ti conviene prenderla. Una che costa di meno, 54,5, stiamo andando e migliorando. Allora, vedere, comunque se tu guarda l'estetica della macchina, se è una cosa bellina non stare lì a risparmiare 10 euro già, perché l'estetica è tutto, capito? L'estetica, come diceva uno che conoscevo io, per fare l'estetica del giardino ho messo le, come si chiama, la stagionata attorno per fare l'estetica. L'estetica va bene, mi mancava. KK, riprendi Antonio un attimino che arrivo subito. Sì, minimo è 54. L'antenna, la PLC4. No, è della Milan, per la macchina mia, non è per casa, è per la macchina che la stavo guardando. Io ho preso già la base magnetica e dovevo mettere l'antenna in macchina. Adesso un po' mi sono bloccato perché sono andato a mettere il cavetto nel coso dell'accendisigari e fa prr, come se non ce la facesse con gli amperi. Sì, infatti lascio perdere, non è buono. Non devo stare a sfasciarmi la macchina per... vabbè, lo volevo mettere. Comunque ho una possibilità, è mettere l'antennino che ho, quello che uso sempre, quello piccolino, con la base magnetica piccola, e il portatile. E va benissimo. No, negativo, no. Poi adesso cazzo che ho... la Jeep la posso mettere, l'antenna grossa, con la Jeep già va bene. La scritta 8A e con l'antenna di rimane. Allucinante, no. Fino adesso le impianto a gas mi devono cambiare qualcosa. Il filtro polline. Sì, se mi accorgo che fanno una cosa del genere, c'era un amico mio che si disegnava apposta per vedere se li ricambiavano. L'olio io praticamente, la macchina io l'ho comprata, il primo cambio di olio me l'hanno fatto loro gratuitamente, dopo che mi hanno cambiato l'olio mi hanno ricoverato e mi hanno praticamente lasciato 3 mesi senza guidare, quindi la macchina è stata 3 mesi ferma, l'olio non l'ho sfruttato, ho 14.000 km nella macchina, però siccome ha superato i 2 anni, se c'è la garanzia sino a giugno, mi ha detto se lui vuole stare in garanzia, siccome c'è un difetto praticamente nella strumentazione, che a volte non si accende la parte centrale del contachilometri, gli ho mandato anche il filmato, e praticamente perché loro dicevano che non si presentava mai questo problema, e me lo fa da quando è nuova la macchina questo problema qua, lo fa quando vuole lì, non lo fa sempre. Allora, quando era poco non gli si presenta il problema, allora gli ho fatto il filmato e praticamente oggi gliel'ho mandato alla Fiat questo filmato qua e mi hanno detto che io volevo lo strumento nuovo perché l'ho portata a cambiare la lampadina dal mio amico elettrauto e mi ha detto guarda già fatelo cambiare perché stanno tirando alle lunghe per scadere la garanzia e poi non te lo fanno più, ed è una scheda che praticamente è difettosa all'interno del contachilometri, è praticamente è un computerino quello lì, c'è una scheda difettosa da sostituire, perché se no se passa la garanzia te la devi pagare. Quando gli ho detto, sai cosa ho detto? Oh, ma ti ha già fatto la diagnosi tuo amico, gli ho detto, allora questo amico mio non è adesso che è elettrauto, se ne frega di molti elettrauti e sa quali sono i problemi, non c'è problema. E praticamente lui mi ha detto per fare, ma a lei le farebbe piacere se io le cambiassi la scheda e poi torna qua con lo stesso problema. Noi dobbiamo vedere esattamente che cosa è il problema. Sì, ma se voi non lo vedete, l'ho provata 4 volte sempre con lo stesso problema e non me l'avete risolto. Voi la girate come volete, tanto in culo la prendiamo sempre noi, così io. Sì, ma l'hanno già prorogata la garanzia perché era scaduta ad aprile e praticamente con la storia del coronavirus mi hanno prorogato la garanzia a giugno, quindi siccome io non sono col dito in bocca, quando ho fatto il difetto l'ho fatto subito il filmato. Sì, ma non essere seri, ho detto che non essere seri, che ho comprato molte macchine alla Fiat, ma non mi vedono più se continuano così. Antonio, gli ho fatto il filmato, gliel'ho fatto vedere, gliel'ho mandato, l'hanno visto, l'hanno visionato. Quindi ho parlato col capo officina, gli ho detto questa qui è l'ultima volta che ve la porto la macchina, il problema lo dovete risolvere. Sì, si faremo un ticket con la Fiat, adesso vediamo un pochettino. Sì, ma fatelo però, perché se mi scade la garanzia, io sono fregato, gli ho detto. Ma se mettono i miei panni, lei cosa avrebbe fatto con la macchina nuova? L'altra non mi faceva nessun difetto, questa qua cazzo mi stanno problemi. E no, va bene, l'ho cambiata cazzo perché avevo un bel chilometro l'altra, però tu credimi che non mi ha mai dato problemi quella macchina. Oi oi, oi oi oi. Vabbè, dai, riprendi Marco. Ma non c'è Marco, Antu. Ma Gianni, non c'è. Antu, ti sto mandando il filmato, mi guardi. No, se lo fa, no, il radio lo fa ancora. Stai abbassando il radio di nuovo. Sto facendo lo stesso problema del tuo. Ma io te l'ho detto che cosa ho fatto io. Gli ho spruzzato l'aria prima nel potenziometro e poi gli ho spruzzato il CRC dentro, non lo spray per contatti. Gli ho messo il CRC, ti dico la verità, non ne ho vero, ho messo quello. E come ha fatto, come è entrato in azione, non me l'ha più fatto. Quello che stai usando adesso? Questo sto usando, sì, perché? No, sto facendo bene, aspetta che lo faccio, dai. Cosa ci vuole lui? Sono 5 minuti, oddio, devi togliere tutta la piastra, tutto il circuito devi togliere, perché ce l'ha sotto. E devi togliere il circuito e farlo. C'è poco da fare. Dai, per il momento uso questo normale. Sono due viti. Già lo so, giallo. Sì, già l'hai dismontato da poco, sì. Lo so. E ti sta facendo lo stesso difetto, anche a me lo faceva. E tu, qua, vuole cambiato questo, vuole cambiato l'altro, boom, baba, lui gattabile. Tu non ci sono il potenziometro, c'era, molto ci vuole a capire. Siete di Ciappini, quell'Uca, oltre che Ciappino anche Cuocomane. Vai, azzardo, vai. C'erano puntini bianchi che non ho capito cos'erano, forse era polvere, che ne so, puntini bianchi, perché gli ho spruzzato l'aria e sono usciti questi puntini bianchi. Iaia, no, adesso lo smonto. Anto! Oh Luca, lo devi dismontare, lo devi. E poi te lo fa un altro paio di volte, sino a quando si tutto penetra dentro, mi. Te lo fa un altro paio di volte e poi non lo fa più. Deve penetrare. Cosa? Cosa mi dico? Mi infurramo, lo dico. Che cacchio stai dicendo? Ah, ma detto, lo devi penetrare. Ma se ti credi, cazzo, mi devo pure i microfoni. Boh, ma dimmi tu, Cristo. Boh, sempre pensando al male questo. Tanto ho visto il film. Ti fa vedere il chilometraggio, praticamente quanto stai consumando, eccetera, eccetera, tutto lì. No, l'orologio non ce n'è lì. No, l'orologio non ce l'ho. Ah sì, però se devi togliere un'altra funzione per esserci l'orologio, capito? Devi togliere per dire i chilometri, perché ci sono sia digitali chilometri che analogici. Devi togliere i chilometri e ti dà quello. Beh, ti fa tante funzioni, insomma, è un computer. Anche lì bisogna penetrare. Anche lì bisogna penetrare già. Eia. Io sono un Black and Decker. Gianni Black and Decker si chiama, va. Un trapano a percussione. Nell'attore pure, che devo mettere un paio di tassetti qua. Azzardo, ci sei? Ciao. Mi abbingo sul microfono, va, devo smontarlo, questo normale, ciao, tutto. I tarzanetti già davanti. Già, ma quell'antenna che stavi dicendo, che marca è? Io non sono riuscito a trovarla. Gianni, siamo rovinati. Guarda, te l'ho detto un bel cazzo. Il caldo. Ah, l'antenna che stavi dicendo, quella 4, PLC4, di che marca è? Io non la già usa. Midland! Ma io mi voglio ordinare un'altra antenna, dai. A me piace la PLC Minox, però quella senza la molla. Ma era quella che andava bene. A Tito mio hermano, se va a scusare Italia, Nord e Sardegna che fa chiamata. A Tito mio hermano che chiama Italia. Una bomba. Vabbè, se non fa l'altro di loro. Chi è rimasto? Claudio. Tutti allontanati ci sono. Aspetta, ci sono al telefono. Ah, a chi tocca, avanti. Antonio, riprendi tu, dai. Così fai girare. Cazzo, siete insieme. Ho capito. Beh, poi chi c'è? Chi c'è? Santalino. Ya dimmi già. No, già, io non sono al telefono con Antonio, spesso al telefono mio cognato. Allora, se Tommaso già, diciamo, fatto insieme. Sicuramente l'ho chiamato tutti e due assieme, aspetta, mi deve dettare della roba per domani, già riprendo subito. Vai Natali. E Riccardino oggi lo si è sentito? Sta facendo un compito di scienze, adesso che entra più tardi, ho sentito anche al padre di Riccardino poco fa. Ciao ragazzi. Visto che lui mi riceve bene con questo microfono, come si sta spellando tutto il tatuaggio? Sto cambiando tutta la pelle del tatuaggio. Guarda una volta là che ti ho preso. È bellina, si chiama PC4, non PLC, PC4 si chiama. E io ho già detto PC4. No, io pongo un BLC. BLC è la 1000, la 600, la BLC Minox. Questa si chiama PC4 e PC6. E la 4 è nera. Non è meglio prenderla nera. E infatti, ma non è bisognuta, da quello che mi ha detto Antonio, che rovina, che il baracchino rovina la centralina. La batteria vuole attaccato direttamente. Se tu mi trovi un buco per passare i fili, non vedo un buco per passare i fili. Già c'è. Sì, buco la macchina nuova, ma no. Quando è più vecchia, Claudio, mi metto di nuovo la solita antenna. Quando è più vecchia? Sempre che ne valga la pena, che ci sia gente, eccetera, eccetera. Quando è più vecchia la mettiamo l'antenna? Turbo 2001, manco su internet. E io l'ho cercato a casa, guardato sotto i mobili. Secondo me mi è caduto in terra. Quando sei venuto tu, me l'ho tolto la tasca, che ti metto, sto arrivando. Me l'ho tolto la tasca e probabilmente mi è caduto e non mi sono reso conto. E mi è caduto in mezzo all'erba, roba del genere. Ma devo controllare bene, anche giù. Devo controllare bene, adesso la mattina quando scendo col cane guardo. Perché non è possibile, ce l'avevo attaccata, era proprio dentro. Infatti l'ho lasciato perché potrebbe l'incastrato, dai, lo lascio dentro. Cazzarola. E l'unica è prendersi un'antenna che costa poco, oppure qualche antenna di qualcuno che ce l'ha a seconda mano e te lo ficchi dentro. Mio Natalino, dillo che ce l'ha quell'antenna. Male. E la stacca. Asco, fai da bravo. Quando mi controllano questo qui me lo metto in macchina. Adesso d'estate è bello averlo in macchina, perché me ne vado in giro, capito? E poi parlo, è per quello che lo volevo mettere. Invece ci sono tutti i diavoli di mezzo e quella cosa non funziona, l'altra non funziona. Alla fine poi ti rompi le balle, ti viene pure a vendere tutto e buonanotte. Addirittura mi avevo fatto fotocopia della concessione, fotocopia del versamento, l'avevo messo in macchina, ho detto così almeno quando me lo piazzo, se mi fermano c'è tutto. A te, ombre, ascolti Sardini Italia, mi ruttando stanno di nuovo. Ma già ci sentono maledetta, sentite che te l'ha chiamato italiano. Analizzioni, grazie, rispondibili. A te, ombre, ascolti la Sardini adelante. Antonio Reserve. Come si chiama? Boccola, come si chiama? Forse c'è tutto l'attacco completo, tanto filo, boccola e via dicendo. E no, l'antenna goccia un bel. Perché anche la PLC, la Turbo 2001 prendevano lo stilo, ma costava 50 euro lo stilo. No, e non so nemmeno come va. Io stavo alla cosina e mi dicevo, hai voluto la vuoi, la pa. Com'è? G? Ah, che è la cosa? Allora, io sono arrivato là, viene ora con la comarca paese. Allora, è che si stai in l'altro Ligueron, e io all'equipo l'ho tenuto 3 giorni molto bene, e tu questa tarde stai salendo il tipo della Revista Pezza. E io lo sto copiando, vera gente di Alicante, si me vai copiando. Attento, mio hermano, se lo scusate, sono della Sardinia, adelante. Si vai copiando. Attento collega, se ascolti l'isola della Sardegna. Io che cuscio moltissima gente, io. Vuoi copiando Teherona, ti do mettervi copiando, Diavolo Alicante, adelante Gerona. Sì, sì, l'ho trovato, GGD. Aspetta, sì, dovrebbe essere GGD, sì, l'ho trovato. E io allora l'ho digitato male, da come me l'hai detto tu, e l'ho trovato. Hanno usato garantito. Io credo che Sardes ha puesto, ha dato una buona regolazione, ya está. Y eso va puesto que es lo que ya tiene. No, de acuerdo a temperatura y ya está, y estaba la hablando, está ahí, y ha cogido temperatura buena. No, la verdad es que sale que no ve ahora. Bueno, vale, no vaya a tocar, déjala ahora en los villas ahí, que te va a enterar. ¿Tú no escuchas a Barreiro? ¿Qué te ha dicho? O bueno, me lo estaba diciendo a mí. Atento mi hermano, vamos a ver, se va escuchando a Italia que va llamando, adelante, lo comprendido, por favor. Ya no sé lo que va a hacer, viste, o que te vaya para Málaga, o si no, no va a chichar aquí. Harry, a ver, atento, copiando, atento estacionario que me vas copiando. Atiento mi hermano, vamos a ver, se va escuchando la Italia, adelante. Venga, ahora te copia por aquí, yo este, a mí no te copiaba, ahora sí te he copiado al 100%. No tienes cojones. Ave, Migliuccio della Spagna, alta voz como ella. San 30. A Costella ella, Migliuccio. Ah, la conosci a Sia Margherita, quella che le sei domando a parlare da piscita. Quanti? Ah, dai, lo voglio mandare per lei. Hai un break, tirale per lei, caracolli, tu lo vai copiando. Ah, te lo mangia sul microfono, io. Guarda un po', ti sto uscendo, ora, ho messo, ho fatto quel lavoretto, guarda un po'. Ora, Custeglia, e già stai uscendo, anche bene. Beh, questo è più 4, ogni tanto non uscì qua, tra. Allora scende, 1, 2, 3, prova, sì, dallo Smith vedo che esce. Già stai uscendo. Io e i miei li ho tutti smontati e puliti. Come ti ha detto già. Ok, lo lasci agire bene e poi vedremo i problemi. Magari poco, ma tu lo devi penetrare. Ho detto, deve penetrare nel coso, nel potenziometro, perché sennò non funziona bene, capito? Come lo penetra, poi che reagisce, va bene. Adesso diciamo che dobbiamo penetrare un microfono. Antenne, fare antenne lo stesso come la REM, uguali come la Turbo 2001, uguali identiche, solo che sono chiamate GGD. Poi la resa non lo so quale sia, No, lascia appoggiato, vediamo un po'. Prova, ditemi se manco, Prova, sto mancando, c'è, funziona, va bene. Se manchi te ne accorgi dal lago che segna poco, quando manchi non va a fondo scala. Adesso ti smonto i tappi del... Poi se riesco a buscare anche la mascherina di questo, però chi è nuovo, questo Typhoon? Mazzo di ti aiuti tu. Dammi, intanto io la settimana manderò a Roberto che c'ho altri lavoretti da fare, così me lo preparo. Se no rimani in chivi, capito mia? Tagli anche quello di sopra del coso, del 3009. No, oggi smonta nuda. Manco mosso. Ecco. Attacca che sei saturo però, cazzo, se no devi fare di exit. Chi è saturo? Ti ho sentito un attimo satiro. No, non ho attaccato niente, sono liscio. Se sto scendo saturo è successo qualcosa, mi stai preoccupando. No. Per un attimo ti ho sentito satiro. Oh, già tu che io sa correre in spagnolo. No, sono coricato, e per quello la voce è un po' diversa, dai. Sarà più grossa. Sì, infatti è come quella dell'asino la voce. Immagine qua che si è penetrato il coso e... Io l'ho portato a 5 watt già, 5 watt e quando attacco è perfetto, capito? Io già lo so, quando ne ho pure lo faccio. Ma sai perché? Perché ne ho messi uno sull'altro, ne ho messi il piano di silva, adesso il giocatore non devo stare a staccarlo, a farlo, lui, non a giocare. C'è anche lo schema qua, c'è uno schema, basta che guardi quello, lo faccio io, però non a giocare, va, di stare a affrontare. Ieri mi sono assillato un po', stavo facendo lo strato per il Ruiz, poi te l'ho maledato. Scusate. Lascia stare il potenziometro. Che musica che tu le dai mangiare oggi, Matteo? No, no, già. Sì, adesso devo trovare il mio gioiello. Se lo trovo il Simba, è molto più bello del Royce, mi piace troppo. Ne ho trovato due, tutte e due, uno lampati, via, perché è dead. Per carità, che gentaglia, via. Azzardo, ci sei? Azzardo? Penetrando il coso, il potenziometro. La variglia corda, no? Ma non fa accostarci da dici, che se stanno parlando solo loro, noi ne siamo come bambini tempi, boh. Ci fa vedere solo gli spagnoli. Ma da lì. Eravamo là un piede. Eravamo là un piede a venire. E tu di più, cuoco, andate via. Andiamo a farci la pena. Attento Pepelu, attento Pepelu, si va copiando. Nella casa si bongari. Attenzione, attenzione Spagna, se ascolti l'isola della Sardegna che chiama, cambio. Attento Spagna, se ascolti Italia. Attento Spagna, non rompe la tasperotta. Buenas tardes, Litri, me alegro escuchar los equipos de afuera. No, que quedó un gato ahí, lo ante, no. Adesso ti giro l'antenna, ti scoppio la radio, ma ti travesci a Costiglia, a te, a Rismozza e Tamara Purenta, fugata a bagno. No, plegavo che... Oggi io non lo si è più sentito, boh. E ha fatto l'entrata in Lione e ci trovo Mazzone, ti ha dato l'antenna, da poi ci hai dormito. E ci ha vedere se gira questa cosa. Oh, oh, oh, oh, e già girendi. Vedere lo Smith. Allora lo smette, oh oh oh oh oh oh opa! Attento, Lismozza e Tamara Purenta, fugata a bagno! Attento, collega! Lismozza e Tamara Purenta, fugata a bagno! Alta voz, comaiglia! Non sei parito, eh? Cosa c'è? Me l'ha succiato! Ha succiato, c'è? Cosa ho succiato io, eh? Cosa c'è? Dimmi, cosa c'è? Ciao carissimo, ma perché mi senti? Ho l'antenna verso la Spagna. Ma dove sei? Ah, ma com'è? Dove sei? Ah, dalle parti di Campanella, sì. Ah, è vero, sì, 270 gradi, è mezzo e mezzo, sì, è mezzo l'antenna, sì. Bene, bene, sono contento che mi occupi, vai Gianni. Ehi, non ho capito se... Non ho capito chi è. Comunque lo saluto cordialmente perché era al telefono, stavo ascoltando. Non lo so se tu, se chi penso io, dai, avanti. La cosa è passata, ok. Attenzione Spagna, Spagna dall'Italia, Spagna dall'Italia, malanti travesi a Costiglia. Mi a cucciare, dico, no, vedo che lì hai quello che hai fatto. Sto arrivando qui, ah mi intende Spagna, Spagna Italia chiama, Italia Sardegna, a bagasse a Tamara Purenta. Spagna, Spagna, malanti travesi a Costiglia, ascolti la Sardegna Italia. Sto parlando con qualcuno che gli arriva ancora più forte di me. Fortunato tu sei, sì, ti sto ammazzando, così hai detto, molto che te vecchi hai. Poi me ne avevi chi non puoi mai. Y alguno, ¿verdad?, que está leyendo fuerte y sale otro más fuerte. Me siento lo ya detto, ve c'è uno que está arrivando muy fuerte, pero no responde, que está varia un pezón, que está varia. Capitivo, eso es que salga, sale por lo alto, pero con ricordo. Hai capito, si sta lamentando con suo amico, che c'è uno che gli arriva muy fuerte, pero no responde. Che te vai che hai niente Peppino a piove, ne fa la ruta a monte, si è accuto il gabbo a terra. Oddio, come ti capito mio moglie, okay? Va mejor a Castelo. Ya la mejor va mejor que él. Atento España, atento España. Perché non te callas, sta qui in Italia, questo è un locale. Which way, please? E lo prueba. Andate a pigliare in gomma le vostre amate lì. Gava, gava, gava di Rogero, gava, gava. Qui già, io adesso ho attaccato il linearetto piccolino, vedi che non s'attira, che è a posto, 5 watt. C'è uno bellino CTE praticamente a MOSFET 300 watt in vendita solo di quei siti dei CB. Ma cos'è, Falcos? No, no, è CTE. No, questo è il B300 alla terza marcia, 150 watt, terza marcia, vedi che se tu anche i lineari della ZG li dai bassa potenza, funzionano bene, non c'è bisogno di darle tanto, funzionano bene. E come quando li alzi, però poi distorcono, quando li alzi di potenza, lo messi a dove ti al massimo, distorcono. Guarda, io ti faccio la prova, così sono in addirittura, no, sono addirittura in quarta marcia, quinta, sesta marcia, guarda, non distorce niente. No, non distorce, va bene questo. Che ho fatto le prove, bisogna abbassare i watt, capito? Io ho i watt regolabili, li ho abbassati, era 8 watt, dava 10 watt, l'ho portati a 5 proprio pieni, non si muove e funziona bene il lineare. Sì, sì, sì, no, dammi 300, nuovo, ma è un modello vecchio, passato, c'ha il preamplificatore d'antenne, boh. Ma cos'è, da vettura oppure da casa? No, la vettura, attaccato l'alimentatore da 60 ampere, e su che andiamo. Oh, claro! No, va bene, io ho quello da 50 ampere, quello grande, lì c'è attaccato 747. Claro! Ehi, no, io ne ho altre due da 40, dimmi tu. Ehi, allora. Guarda com'è questa qua adesso a radio, guarda un po'. Questa è leggermente più grossolana, un po' più forte mi sembra. Cos'è questo, il Typhoon? Eia, io cambio il condensatore perché l'ho visto, era un po' bruttino, guarda. 25 microfarad, 1000, ma 25 volts, 1000 microfarad. Questa è forte la voce, però guarda che anche il 3009 si assomiglia molto a questa, forse talmente abituati a quella là, a questa, e vabbè, dai, io sto per provarlo, no? Però lo smette, fa sempre quel difetto. E vabbè, ma quella è una bella radio, funziona bene, tienitela di scorta, non si sa mai che ti può servire, capito? Tanto quando la vendi due citti, ti mangi di là e non vendi uno nell'altro. Infatti. Ma no, puoi attaccare anche l'altra, per me funziona bene anche l'altra, tutte e due sono belle, questa è un po' più forte, che lo rimane, capito? Però va bene lo stesso. No, ma che già lo tiene che controllarlo, caro. Se ti dico già, cosa mi hanno portato l'Alghero? Cosa mi hanno portato l'Alghero? Il microfono che usava Pinaccio. Guarda, l'ho messo dentro l'armadio, non lo voglio usare con l'Airbex, mi ricorda troppo che l'ho messo dentro l'armadio, nuovo, veramente aveva fatto un grubbie di stallo, mi ti mando la foto. E chi ce l'aveva? Giuseppe? Eia, Giuseppe ce l'aveva. Sei andato a prenderti la roba di Giuseppe? Scusa, ti ho detto. No, senza me, il futuro è... Sì, sono andato, ma non vuole soldi e non voglio niente. Io senza soldi non voglio niente. Mi sono rotto le balle, sembra un cartone. Io pago e mi dai la roba. Non vuoi soldi, te la tieni. E io dico che è buono bambino. Ehi, chi è? Non hai segnale, ti stanno coprendo gli spagnoli. Chi sei? Gioacchino. Ah, Leoncino, sì. Oh, non hai segnale, no, Giuseppe? Forse ti ascolta Gianni. Io ti sento basso, basso, basso. Lui lo sente, Giuseppe. Che è Giuseppe? Leoncino. Oh, Leoncino. Sì, io lo ascolto, è la Puglia. Già fai con le più piante, che con le che tengo. Ciao, questo gabu di scimmia, questo spagnolo. Comunque ti ascolto, tu mi ascolti, sì. Già, però, è quello che fa. E dove sei, Giuseppe? L'altra volta, in Spagna poco, eh? C'è uno spagnolo che ti ha rompendo le balle da poco fa. Ciao. Guarda, mi porto di qua. A ver, lui dico, è della Tele, è del Medidor, della Tele, devo mandarlo. No, vecchio, te la devo mandare. Adesso pullavo quel microfono, smontato qua. Ahí la lleva. Que no te olvides, se la vas para acá, porque ya te pasa por aquí. Che palle questi spagnoli. Devi fare quando llega il terremoto, è bombato lì. E cammina il dinamito di dinamito cade, che io era toccato. Si manca maleduca. Non si sposta, non vedono che c'è un freccio locale in Italia qua e non si sposta. A te non ti sentirebbero. No, scherzo, Natali, però per esempio l'altra volta, no? Scusa, non, ma ruota c'era davvero, io acceso ho sentito solo propagazione. Ma è 2 ore che è qua questo spagnolo rompendo le scarpe. Luca? Ecco, Luca, ci sei? Sì, anzi, devono fare una. No, ho visto messaggi adesso, sono tornato dalla spesa, cosa volevo dire? Natali, l'altra volta che ero all'Ancora, no, dove abitava Sandro, a Pro Torres, ripeto che so, Claudio e Gianni, Santiago 8, Roberto tipo 6 e mezzo 7, Giulio Santiago 5, tu eri Santiago 0, Radio 2, è una cosa incredibile, incredibile, eppure conta che è pur sempre un'antenna sul tetto, porca miseria, quanto incidono le zone, ah? Non è solo la zona, è che basta, se io la tiro 2 metri su, vuoi vedere come ricevo bene e trasmetto bene? Conta che 2 metri non è abissale come altezza, Natali. Cioè 2 metri è quasi una persona, un cristiano, diciamo, un granatiere. Bello sollevare di 6 metri e tirantare, ma lì non si può, non si può. Va bene, anch'io non è che sia molto performante, quindi mi accontento di quello che passa il convento. Poi cosa come 5 watt, cosa vuoi fare? Nulla. E lo dico che non fa, se c'è 1 metro pure dal tetto, se l'altro di 2 metri, sarebbero 3 metri pure dal tetto ed è qualcosa già, almeno risuona anche bene l'antenna e tutto. Io ho problemi di ricezione, per quel motivo lì. Mi sento le radio AM che mi stanno ammazzando, sento parlare in arabo su di te, Allah, Allah Akbar, Allah, Allah, Allah, Ambaradan. Lo sai che ho trovato la situazione per farlo andare a corrente con Yair? Sì, mi pare di ricordare che abbia una presa per l'alimentazione tipo 6 o 9 volte, non mi ricordo. Solo che deve essere una cosa molto filtrata, tipo alimentatore stabilizzato regolabile, se no introduce un rumore allucinante. Io sai cosa avevo usato? Sai quei trasformatorini regolabili, quelli a scatti da 3 volte a 12, no? Quelli che hanno tutti gli spinotti multipli. Beh, li entra... vabbè, che tu ti mirai, grazie al cacchio. Gli entrava un rumore, un rumoraccio che non ti dico. Se invece ne uso uno schermato, allora posso capire. Cosa hai usato tu? Sto usando un alimentatore normale della Zephyr, questo qui. Switching, e non entra nessun rumore. È perfetto. Infatti, ci vuole un alimentatore bello filtrato, cioè, un vero alimentatore. E quant'era la tensione? 6 volt o 8 o 9 volt esterna, non mi ricordo. No, 12 volt. Addirittura 12, caspita, ah, non me lo ricordavo. E io, sono passati tanti anni, no? Non mi ricordo nulla io di quell'apparecchio. Che me lo metto in macchina così com'è e funziona una meraviglia. Io non ho messo più batterie, addirittura mi ho messo i canali marini, quindi ascolto tutto, va, è veramente bello. Comunque il microfono è smontato, quello donato quel tipo, è messo a bagno con lo strassatore, facciamo un po' di sporcizia, se lucido lucido. Ehi, Luca, ho visto i messaggi poco fa, che sono rientrato dalla spesa. Ho visto, sì, è buono quel prezzo, quello è bello. Solo che rimaniamo sempre lì, Luca. Cioè, quello funziona. Finché funziona, me lo tengo. Beh, normale, se va, fregatene. Comunque, ZG mai più, Ho finito di buttare i soldi in roba ZG. Mai più. Sono la roba ZG, sta roba di... Addirittura ho il commutatore d'aria, io, il commutatore d'antenna, non ne uso roba ZG, ho avuto brutte esperienze con quella roba. E quindi Luca, dai, sei soddisfatto, esce bene, riceve bene, hai detto comunque. E quindi a posto, dai, in banda laterale ricentrato, in FM ti ho sentito, insomma, buono dai, buono, buono. Peccato per i graffietti, ma dimmi una cosa, ma sono graffietti superficiali appena bocciati o graffi profondi? Spazio la mano si sente. Ah, cioè si sente un po' l'incisione. Peccato, peccato, dai. Vabbè, comunque. Dove sono i graffi? Sulle manopole o sul frontale o sulla cornice? Sì, anche le manopole, la manopola del coso sembra... Boh, sembra che si stia scostando. Ah, quando va via quella cromatura, che poi, non so, non è nemmeno, non credo sia cromo su plastica, non avrebbe senso. Pittura, è pittura semicromata, non lo so come sia, non me lo sono mai chiesto. E comunque bene o male, sai che trovi certe volte kit di manopole per 3.900 da venditori inglesi, no? Cioè se uno proprio le volesse cambiare, alle volte li trovi gli Smitter. Ah, a proposito di Smitter, sai che se li fanno pagare un saccaccio di soldi gli Smitter dei 3.900? Mi pareva di aver letto tipo 30 o 35 euro lo strumentino, ma stiamo scherzando? Lo so, già se io non è per qua, per questo qua, che non so se è lo Smitter che è mezzo imballato, boh, ogni tanto funziona, ogni tanto no, vedi adesso, boh, per carità, adesso sto usando il Tyson, E poi sono simili, dai, come apparati, almeno ti trovi già, è più familiare, capito, Luca. Comunque, Lu, detto tra noi, questi apparecchi digitali, sì, sono affascinanti, ma non ti perdi niente, mi alla fine col 3.900 fai le stesse identiche cose. Sì, ma non ci avrai l'eco, l'autoascolto, ma io l'eco non lo uso, l'autoascolto non lo uso. Poi lì devi stare, per modificare il mic gain devi andare su menu, sono molto più comodi i 3.900. Escono bene, cosa vuoi di più? Semplicità. E poi a me sono sembrati un po' più rumorosi questi digitali, lo sai Luca? Più rumorosi. E poi quando c'è propagazione non ne parliamo, quando ci sono disturbi elettrici non ne parliamo. Purtroppo, ma un casino, un casino è. E infatti in macchina non so quanto siano validi, dovrei provare. Vediamo, un giorno che esco proviamo, dai. Va bene, dai. Che ora è? Ancora è presto per mangiare ancora. Cosa vi posso dire? Riprendete, è Natalino, riprendi. Ma questo qua c'ha l'impedenza 500 ohm il microfono, questo della President. Ah, 200. Di solito sono 500 ohm. Tipo questo 500 ohm, il DMC 507 è sempre 500 ohm. Non so cosa cambi. Cosa fa? Esce più forte forse, boh. Come fatto, ho detto 500 ohm, non 200, 500 ohm. Avevo capito 200, no, che io ho le orecchie foderate di prosciutto, capito? Sentito male. 200, che non serve a nulla. Mi raggira di mettere una resistenza, allora sto da 300 ohm e lo porto a 500. Ma claro, Vinero. Voce, Natali, voce. C'è tanto che metti queste cazzo, dici bene, c'è volte sì. Mi così ti sento. Perché sono abituato con l'MC 60 io mi do cazzare a volte pure il mio vizino per uscire bene. E sentivo lo spagnolo sotto, ogni tanto arriva a 9, a picchi arriva a 9, lo sai, col PSB c'è la tessale, arriva a 9, anche 9,5. E te immagini G, vabbè che loro pompano. Già si brucia, non si brucia, non li sentite. Non si può avere tutto, porca miseria, Natali. Io volevo essere libero per il continente italiano, invece sono schermato dai palazzi, poi vabbè, il segnale in propagazione bene o male passa, però invece gli spagnoli ce l'ho sull'orizzonte libero. Ci sarebbe voluto invece un bel Himalaya, un monte Himalaya proprio in direzione alla Spagna, così me li schermava. E questi sono come la peste, mi arrivano dappertutto, sono forti. Mi ricordo quando avevo il 2001, gatta, c'aveva anche l'amplificatore d'antenna, bellissimo era quello. Chi è che vuole entrare, avanti? No, no, forse era lo spagnolo, ho visto un segnale forte, circa 9, magari era quello. Ascolta, questi lineari valvolari della ZG, no? Adesso sono stati affiancati o sostituiti dall'equivalente però a transistor, no? Tipo B, ha un nome strano, B senza la V, tipo B2002, come vanno? Vanno benissimo, non bene, meglio di quelli valvolari, sono per sempre dietro, 507 per esempio, c'è... Oh, e poi cioè c'hai tutto pronto, non devi avere alimentatore, attacchi la 220 e non devi accordare plat e loat, è un bijou, cioè accendi e vai a tutta birra. E però se li fanno pagare centinaia e centinaia di euro, boh. Io credo che di componenti ci siano due schifezze dentro, il grosso saranno i finali, il costo dei finali. Hanno un 550 già hanno dentro, 506. Eccomi, sono qua, KK. Claudio mia, fagiolo. Ho detto, stavamo parlando del BV2001, questi che hanno affiancato o sostituito i BV, questi tipo B2002, sigla del genere, come vanno? Bene? Ci vanno bene, alla grande vanno, ma non c'è problema. Cioè il trucco è sempre uno, pilotarle in basso e vanno bene, così è. Non so nemmeno che transistor abbiano. Natalino diceva che probabilmente dentro c'è un B550, cioè la scheda mia. Si conferma. Sì, l'ho avuto io, c'è un B550 dentro. Guarda, io c'ho il B300, l'ho dimostrato a Gianni, che anche in sesta marcia non satura. Perché? Perché io ho abbassato la potenza a tutte le radio. L'ho messo a 4 watt che ne aveva 8, ne ho dato 4. Intanto se lui usi anche normale il baracchino con 4 watt ci sentiamo lo stesso, se necessita agganci e non satura, anche in sesta marcia, capito? Bisogna abbassare la potenza per usare anche i lineari, quelli più scadenti, bisogna avere la potenza bassa, se no un casino.